Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Per fortuna una settimana senza quel personaggio dalla risata odiosa e noiosa. Mio Mila, qui abbiamo un grande vuoto di potere giornalistico. Ci manca Alessandro Milan con il suo sorriso. Mio Mila Maria, sono Anacleto Fiorentino. Anche se mi stai su coglioni, fai buone serie. Ciao, bischeraccio. There's a man in New Orleans who plays a rock and roll. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of coal. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone. Jumping like a catfish on a pool. Yeah. You know he's gone, gone, gone. He's shaking King Creole. Now when the king starts to do it, it's as good as done. He holds his guitar like a Tommy gun. He starts to growl away down in his throat. He bends a string and that's all she wrote. You know it's gone. Ciao! È un risultato storico. Roma, il Movimento 5 Stelle ha vinto per la prima volta un sindaco donna. Dobbiamo ringraziare il Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. È per loro se oggi siamo qui a Roma, a Torino abbiamo fatto questo risultato, in tantissimi altri comuni d'Italia. È una vittoria storica, stiamo iniziando a fare la storia di questo paese. Seguiteci! Ciao! Se non ci mette la macchina ci dobbiamo arrivare, ma... Dopo 20 anni di malgoverno, dopo mafia capitale, i cittadini erano pronti. Vabbè, sono qua, signori! Ci siamo dopo una misera settimana di ferie. Eccomi, cari ascoltatori, sono le 6:16 minuti. Ripeto, non abituatevi. Ci sono state le lezioni e quindi come al primo turno entriamo un po' prima per parlare delle amministrative. E che dicono le amministrative? Beh, avete sentito Virginia Raggi, sindaco di Roma, prima sindaca donna. Oh, io ci sono, ma voi ci siete? Cari ascoltatori, sveglia al 349-238-6666. Forza, dai, anche se non vi sono mancato, eccomi qua. E poi un'altra donna, Chiara Appendino, sempre del Movimento 5 Stelle, ha trionfato a Torino. Queste sono le due sorprese, forse la sorpresa più clamorosa, proprio Chiara Appendino. Poi Sala ha vinto di misura, 51,7% Beppe Sala a Milano, sindaco a Milano. De Magistris, vabbè, è stata l'incoronazione il secondo turno, ha vinto Virginio Mero la Bologna, questo nelle cinque grandi città in cui si votava, ma poi ci sono tanti altri voti interessanti. Oh, la Lega ha perso a Varese. La Lega a Varese. Cioè, la sua capitale insieme a Bergamo, la Lega, peraltro a Bergamo non governa la Lega, ma cioè non c'è un capoluogo lombardo dove governa la Lega lombarda, ex Lombarda. Vabbè, insomma, sono cose che capitano anche queste. Comunque, insomma, Virginia Raggi in trionfo, tutti felici nel Movimento 5 Stelle, sarà bellissimo, adesso sarà una goduria vedere anche tutti quei giornalistoni che fanno la gara a dire che in fondo loro sono sempre stati un po' vicini al Movimento 5 Stelle. Vabbè, insomma, sarà, vabbè. Tutti felici a Roma del Movimento 5 Stelle, ma non tutti. Ciao. Ti rendi conto? Quello che ho sempre saputo si è realizzato. Che gioia, che emozione. Ho pianto di felicità. Quante volte ti ho detto che ti vedevo bene come sindaco, ero sicuro che ce l'avresti fatta. E così è stato. Sei stata vicino alle persone, loro ti hanno ripagato dandoti la cosa più importante, la loro fiducia. Hanno buttato fango su di te, ma non ci sono riusciti, hanno preso una sonora lezione. Sono 21 anni che ti conosco. Ora per noi è un momento difficile, è inutile nasconderlo, ma io sarò sempre accanto a te e cercherò di proteggerti il più possibile, anche da lontano. I tuoi occhi parlano. Sei stata un fiume in piena. Hai avuto un coraggio da leonessa. Grazie a tutti. Grazie anche ai portavoce, agli attivisti. Non tradite mai quello che le persone vi hanno dato. Ah, una cosa ancora. Mi manchi da morire. Tuo marito, Andrea. Caro Vincino. Caro Vincino. Io, che c'entro io? No, questa è la lettera che il marito di Virginia Raggi ha pubblicato nel momento in cui Virginia Raggi è diventata sindaca. È una persona straziata. È stupenda proprio. Vabbè, è stupenda, ma è distrutto. È quasi più di Renzi. È distrutto, esatto. Matteo, no. È distrutto. È distrutto. È perché la vedeva tra 5 anni. No, forse. Perché si sono separati. Cioè, questo sì. era sono separati. Sì, era un gossip che girava. No, poi noi lo sapevamo. Cioè, si sapeva. Non perché l'avevi detto. È in qualche modo è anche un collega. Non mi dicono mai niente. Ma no, è un regista RDS. Mandiamo un abbraccio a lui, a Rossella Brescia. Ho capito. E quindi... è tutta una banda. Ho capito. No, c'è un complotto. Che banda. Ma sì. Però dai, è distrutto. Vedi che cosa siete, però. No, ma Vincino è distrutto. Ma è distrutto. Ha scritto così, dai, distrutto. Chissà chi stava a festeggiare questa cosa qua. No, ma dai, no, non è no, che... no. Ma una rompiscatole come quella, deve, come dire, per lui è una felicità immane. Dai. Una liberazione. Una liberazione, assolutamente. Oh. Come dire, non è che. va bene. Qua. Insieme a Vincino siamo a commentare il trionfo a Roma del Movimento 5 Stelle insieme a Torino e non a Milano, invece vince Sala. Insieme a Vincino c'è il nostro Carlo Rienzi, presidente del Codacons. La I che fa la differenza, eh? Il candidato battuto. La I che fa la differenza, sì. Il candidato battuto al primo turno. Quanti consiglieri avete piazzato in consiglio? In Campidoglio? No, abbiamo preso 3.000 voti, ma nessun consigliere perché eravamo da soli. 3.000 voti. Se fossimo stati in colonna, come si dice? In coalizione, si dice veramente, in coalizione. Comunque mi fa un po' pena Renzi a me tutto questo. Perché? Ma posso dire io pensavo il marito della Raggi. No, la Raggi mi sta antipatica, vabbè, insomma, speriamo che vada bene come sindaco. Ma gli ha scritto una lettera straziante, niente, a nessuno interessa il dramma del marito della Raggi. Fatti loro. No, mi fa pena Renzi perché ha fatto un sacco di cose. E ha avuto sabatosto, cioè la gente non riconosce nemmeno quello che si fa di concreto. Ma non ne ha azzeccata una. Non ne ha azzeccata una. Allora eccolo qua. Beh, mica tanto. Cioè, vabbè, dal Vangelo secondo Maria Teresa Meli. Siccome sai che Vincino io leggo i giornali alle 5 e ti frego. Eccolo qua. Sì. C'ho già la reazione di Renzi. La vuoi sapere? Sì, la reazione di Renzi. Abbiamo perso, c'è poco da dire. Io non mi dimetto da niente. Sia chiaro. Né da segretario del PD. E anzi, ho rottamato troppo poco. La vicenda Fassino è la dimostrazione che è la vecchia guardia che va tolta. E quindi avanti tutta, il referendum è la vera partita. Capito? Allora, il problema è che quello che è uscito fuori di chiaro è che c'è stata l'alleanza tra 5 Stelle e destra contro Renzi, quindi è stato molto politicizzato. questa elezione. Ed l'esempio classico è Grosseto. Sì, Grosseto. Dove, non so se ne è pensato di parlarne, dove praticamente i 5 Stelle con la destra ha vinto il centrodestra, si sono alleati contro il centrosinistra. Questo è un grosso segnale sul fatto che c'è una sorta di alleanza semplicemente contro Renzi e contro anche capito, la corruzione. Caro vicino, viene da Grosseto la vera... Ma quale alleanza? Ma a Milano se c'era l'alleanza c'avevamo Parisi, scusami sindaco, che discorso è? Non no, è così, perché, ho capito, non è così, c'è un'ora fortissima contro Renzi, Renzi sta cadendo, crollando, a pezzo, ha sbagliato tutto. Ha sbagliato tutto, lui che ha scritto la cavalcata di Renzi, attenzione vincere. Ma se tu lo guardi le cose, cioè come dire, allora... Parlavo di Olimpiadi, non gliene fregava niente a nessuno delle Olimpiadi del 24. Beh, ma che mi frega delle Olimpiadi del 24? Effettivamente no? Referendum, non ne fregava niente a nessuno del referendum. E come dire, tutte le cose, e poi tutte imbecillità quella legge, è cattiva ma giusta. Ma che tu fai, legge cattiva ma giusta, provocare prima delle elezioni? Porta a casa, vaffanculo. Ma no, uno fa contro gli italiani la legge cattiva ma giusta. Che una baggianata totale imbecille, quello che è suo è suo. Fermati, voglio salutare i miei amici sempre Dieng da Paese in provincia di Treviso, che esiste, è paese. E poi devo dare un buongiorno ad Antonio da Babato, PD, nel senso di Padova, spero, perché PD non è molto molto molto di moda oggi. Poi, chiama Vincino e mandalo a fanculo. Questo credo che sia uno del Movimento 5 Stelle. Infatti vorrei sapere. Ma io guarda che io l'Appendino l'ho detto un mese fa che stravinceva l'Appendino. Perché tra la vecchia faccia bollita di Fassino che si era iscritta al PC all'epoca di Togliatti e l'Appendino giovane e carina che ha fatto pure un discorso bellissimo ieri. Dico, uno 100 volte votava l'Appendino, scusami. Tra l'altro, senti un attimo. Poi anche Giachetti ha sbagliato tutta la campagna elettorale mettendosi la Turco, la cosa, ma uno errore dopo l'altro, guarda, non è, bisogna dire che i radicali al PD non portano bene mai. L'Appendino chi l'ha votata vicino? Scusa. Come l'Appendino? I torinesi, gli italiani non ne possono più di Renzi, sono intelligenti. No, ma Renzi pensa che ci sia questa alleanza, cioè, ma non credo che ci sia. Ma non è un'alleanza formale, è un'alleanza contro. Perché quello è un cretino, scusami. Abbiamo un presidente del consiglio, diciamo, deficiente, che ti posso dire? È satira, la possimo fare. È satira. Un anno di vaffanculo. Esatto. Questo è il tuo tweet, un anno di vaccino a Renzi. Vicino a Renzi, un anno di qui e un anno di là. No, a Renzi, a Renzi. Sì, a Renzi, perché qua adesso mi confondo, c'è Renzi. No, per carità, che Renzi c'ha la querela facile. No, a Renzi, assolutamente. Comunque Renzi, poi le banche le ha favorite, i gestori dei giochi d'azzardo li ha favorite. Ma non è che uno va a votare il sindaco e pensa al gioco d'azzardo. Le banche ha ragione, le banche ha ragione. Io mi immagino che avevo un'azione della Cosa Popolare di Vicenza. Vicenza è un conto, ma se votano a Milano uno mica guarda le banche come prima cosa, no? No, si terrorizza, questo delle banche ha terrorizzato tutti gli italiani, che loro sfacciatamente, invece di salvare tutti, hanno favorito gli impiegati felloni che hanno rifilato queste stronzate e quelle cose, no? I padri dei ministri hanno tutte le cose, hanno fatto affondare, morire questi poveri azionisti bidonati vecchietti in pensione, bidonati totalmente. Però io adesso devo andare un attimo in pubblicità, c'è una foto, perché le foto raccontano tanto, non so se, allora io l'ho già messa su Twitter, quindi caro Vincenzo, Cincino, anche se non hai letto i giornali, la puoi vedere, anche avvocato Rienzi la potete vedere. C'è questa foto di Fassino, non so se l'avete visto, Fassino al seggio, faccia a faccia con lo scrutatore, che in pratica è il figlio di Savastano, lì quello di Gomorra, sembra, no? A Gennaro, e Fassino magro, e questo con gli anelli, le borchie, l'anellone all'orecchio, lo guarda con tutto sbracciato, sembra proprio, come dire, è un'immagine così emblematica della sconfitta di Fassino. Adesso te la mando, Vincino, te la mando, poi dopo la pubblicità mi dici che ne pensi di questa foto, Jenny Savastano e Fassino, tra poco. Io mi auguro che un giorno lei si segga su questa sedia e vediamo se poi sarà capace di fare tutto quello che oggi ha auspicato di poter fare. E comunque lo decideranno gli elettori. Era il 14 maggio 2015 e Piero Fassino, sindaco di Torino, si rivolgeva così a Chiara Appendino. Com'è che si rivolgeva? Risentiamolo bene, Piero Fassino, sindaco. Io mi auguro che un giorno lei si segga su questa sedia e vediamo se poi sarà capace di fare tutto quello che oggi ha auspicato di poter fare. Caro Vincino, non male la profezia di Fassino. Sì, ma poi Fassino sempre con quella faccia da mugugno, sì, triste, incosciato, madonna mia. Ma l'hai vista la foto? No, la foto non l'ho vista, dove lo vedrei? Ma l'hai mandata WhatsApp? E WhatsApp, sto parlando al telefono, come la posso vedere? Non sono tridimensionale. Bravo, io non ho una tecnologia sofisticata, una tecnologia antica. Insomma, siamo con Vincino, che non lo sento neanche, non lo sento tanto abbattuto per il trionfo del 5 Stelle. Io sono felicissimo. Ma come felicissimo? Assolutamente, è cambiata una fase totale, guarda, me ne sono fatto una ragione, no, i prossimi, per noi dottori di satira sarà stupendo, periodo meraviglioso. Il primo che sale sul carro del vincitore. Io sono di lato dal carro, l'autore di satira sta fuori dal carro, assolutamente, sul carro picchiano, menano, non è che... è meglio di no. Insieme a Vincino siamo con Carlo Rienzi, anche presidente del Codacons, anche lui poco soddisfatto, perché... Adesso viene il bello. Adesso viene il bello, eccoli lì, tutti che li aspettano. Abbiamo pronte le richieste, quelle che possono essere soddisfatte in pochi giorni per il nuovo sindaco di Roma. Vabbè, adesso tra un attimo ce le dico. Mi faccia presentare, però Rienzi. Adesso ce le dice uno, proprio così: 1, 2, 3, tre punti. Però voglio salutare. Ma dico proprio, perché sennò quella si prepara. Deve essere una cosa precisa, vi copia. Quando si insedia. Adesso. Però intanto voglio presentarvi un'altra che, non so, gongola, è felice, è sorridente, è allegra, è spensierata, è gioiosa. Gongola cosa? Chiara Geloni! Stupendo! Ma certo, ma tu godi come un malamatta adesso. È il vostro momento. È il vostro momento. Ma tutto quello che abbiamo costruito... Come formichine l'hanno perso, l'hanno lasciato per strada, altro che gode. Ma non guarda, godo niente, ma sono guarda, arrabbiatissima. Guarda che invece Renzi sai che ha già individuato qual è il problema, racconta dei giornali. Sì. La vecchia guardia, ho rottamato troppo poco, i Gotor, via i Gotor. D'Alema, via i D'Alema. Vabbè, vorrà dire che faremo un segretario più giovane di lui, dai. Tu già vorresti cacciarlo dal segretario del PD. No, dico che se facciamo così non ci capiamo, non ci capiamo. Devi lasciare la segreteria. Questa cosa, io non hanno votato per me, ho rottamato qui, ho rottamato là. È vero, ha detto già anche non ha capito. Ho fatto già troppo poco il Renzi. Infatti, mi pare proprio un'analisi perfetta. Infatti ha aggiunto: ma al referendum scenderò in campo io e sarà una partita spettacolare. Quando siete in campo io e siamo a posto. Mi pare proprio quello che hanno detto gli italiani: di andare avanti così, però un po' più io di mettersi. Esatto. Un'analisi del voto perfetta. Vabbè, perché sei arrabbiato allora? Sono arrabbiata, ma è felicissima, ma è felice, ma certo che è felice. Tutto quello che poteva perdere, con l'eccezione di Milano, perso tutte le città dove nel 2011 aveva vinto, Novara, Trieste, Pordenone, Grosseto, insomma, tutto, Savona. Ha buttato tutto il lavoro di avete preso Varese, Varese alla Lega, Varese alla Lega. Savona, ho felicità per Savona. Varese io è una città dove ha vinto un candidato non renziano del PD che sì, alle primarie aveva battuto il renziano. Non renziano, senti un po', capisci? Senta un po', ha strappato Varese alla Lega per dire io, no? Ma che ci vuole però, scusi, cioè, come dire, una Lega comandata da Castruccio Castracani, ma è una cosa, guardi, di un valore culturale 0,3 e mezzo. Cosa vuol dire Castruccio Castracani? Ma sì, per l'unica cosa che ha detto Salvini ultimamente, 2 giorni fa ha detto castriamo tutti gli stupratori, così, quell'altro, tutti castriamo, Castruccio Castracani e Salvini. Come dire, ma tu ti immagini un centro-est d'Italia comandato da Castruccio Castracani? Non male, Castruccio Castracani. L'ho già però, disegnato. Attenzione, ecco, eccolo qua, attenzione, fermi però. Carlo Rienzi, dai, non ho dato tempo per pensare 3 minuti. Senza suggerimenti, alla Raggi, senza suggerimenti. Però 1, 2, 3, le prime 3 cose che deve fare nei primi 100 giorni il sindaco di Roma. Dai, forza. Ma no, ci sono delle cose semplici che devono essere fatte, che sono alcuni punti della metropolitana che sono disastrati, sì, alcune buche che sono impossibili da far vivere ai romani. E poi un sistema di risposta, come hanno promesso sia lei che Giachetti, che era quello che noi avevamo proposto, e loro hanno rifiutato perché un po' perché sono arroganti, un po' perché facciano di chissà che cosa impegnarsi, e rispondere ai romani in 48 ore quando segnalano il disservizio. Tre cose, buche, rispondere in 48 ore, e magari, magari lo faranno. Trasporti. Però c'è questa cosa, cioè, attenzione, tra l'altro, per capire com'era il clima del PD, caro Rienzi, caro Vincino, cara Geloni, gli ultimi giorni di campagna elettorale, Giachetti, oggi lo fa notare sul Corriere della Sera, ha dichiarato il partito più che un aiuto mi è sembrato una tragica zavorra. E ha detto questo: ma sapete come hanno raccolto al mercato dei Giardinetti, periferia sud-est, Orfini quando è arrivato? E noi ve lo facciamo sentire. Senti Vincino che bel clima. Come si meritava. Eccolo lì, sentilo, senti. In galera dovete andare, i regni finiscono tutti prima o poi. Anziché fate la fine di quello francese, beh, tagliamo proprio la capoccia a tutti quanti. Brutti zozzi, ancora se presentano a fare pubblicità al PD. A Raggi secondo me va bene, per adesso. Poi vediamo dopo che ha fatto. Vabbè, questo è un signore che Chiara Geloni. Questo a è un po' Roma il... bisogna dare ringraziare Buzzi e Carminati. Buzzi e Carminati. Perché Mafia Capitale ha creato i presupposti per questo cambiamento. Però adesso la Raggi deve spiegare la storia della ASL, degli incarichi. Quella è una stupidaggine, dai. Qualsiasi stupidaggine, però se non ti ricade in quel loop negativo che il cittadino non accetta più. Questo mi fanno rispondere, sì, visto che mi avevi fatto una domanda. Dimmi che questo dire, è il clima. Volevo dire che a Roma il PD si è permesso di dire che Marino non aveva più rapporto con la città. Io so che Marino aveva dei difetti, ce lo siamo detti tante volte anche in questa trasmissione, doveva dimostrare il PD di avere un candidato forte, una carta in mano che metteva tutti a sedere, e il rapporto con la città che aveva accusato Marino di non avere più. Io credo che sia il candidato che il PD non abbiano saputo parlare a Roma. Punto. Zavorre sono stati tutti. Non è che Marina ci avesse un rapporto con la città. No, però c'è questa cosa. Durante la federalizzazione dei fori, lui il rapporto non parlava con nessuno. Non riceveva nessuno. Era più arrogante forse di quello che può sembrare la Raggi attualmente. Aveva vinto le elezioni, cosa che non è riuscita a Giachetti e al PD del 2016. Tra l'altro c'è questa cosa. Perché era dopo Alemanno. Sì, vabbè, adesso non facciamo la storia all'incontrario, diciamo. Parliamo anche Alemanno l'aveva. Parliamo del presente. No, ma c'è questa cosa che viene diffusa dai giornali. Aspetti, fermi tutti. C'è una cosa che viene diffusa dai giornali che è questa e viene detta da un po' di giorni. Ora vediamo che cosa sono capaci di fare. Allora facciamo un giro rapido. Vincino, secondo te ci sarà una sorta anche a Roma, più che a Torino, quale dire di boicottaggio da parte di qualcuno? Cioè, come dire, li attendono al varco, adesso vediamo con 13 miliardi di debito, ci sediamo, aspettiamo sulla sponda, vediamo che fate. No, non lo so, no. Perché guarda, saranno tumultuosi i prossimi mesi, secondo me. Secondo me, come dire, io non so come il governo tra due mesi ci sarà ancora al suo posto. È un'onda questa qua, no, ma finisce prima forse, è un'onda tumultuosa fortissima questa qua, assolutamente. Quindi tu... sì, perché c'è lo scollamento di Renzi dalla realtà, è pazzesco, come dire. Quindi mentre... mesi tumultuosi, titoliamolo così, mesi tumultuosi, secondo te, Chiara, che fanno? Li boicottano a Roma, attendono, aspettano con sadismo quella che potrebbe essere una vittoria boomerang? Ah, insomma, mi pare sicuramente. Che più boomerang sicuramente la sconfitta della vittoria, quindi penso che il PD dovrà pensare un po' anche a se stesso, più che aspettare al varco gli altri. Per quanto riguarda i nuovi sindaci eletti, sarà interessante vedere se dalla città di Roma, come anche di Torino, eccetera, verrà fuori un'onda positiva nei loro confronti, anche maggiore del consenso che la fate vincere in un contesto di forte astensione, eccetera. Se le energie, insomma, non le energie migliori, ma un po' di energie buone della città accetteranno di dare una mano a Raggi e Appendino, io non penso che i loro due da sole potranno. Ma no, è chiaro, non è che da sole, insomma, si può far finire. Forse potrebbero riuscire a incanalare positivamente questa voglia di cambiamento che il voto espresso. Renzi che dice? Li boicottano? Certamente sarà boicottato dal governo, sarà boicottato dalla minoranza, dall'opposizione. E penserà di essere boicottata anche da cose come il Codacons, perché noi adesso sto scrivendo un pezzo per l'Asse in Sopporto, per il mio blog, perché noi adesso dobbiamo necessariamente metterla alla prova per far vedere querelarli, no, io lo so, dobbiamo necessariamente querelarla, che è una cosa diversa, che deve essere diversa, però se non farà nei termini di legge alcune cose, noi la denunceremo immediatamente, andremo avanti così, perché è giusto che sia così. Ha preso questo incarico, è un sadico. Ma ci sarà la cosa di nozze, ci saranno i mesi di, come dire, di grande successo, la luna di miele, mattina a quest'ora mi manca il reggio, grazie Chiara. No, però aspetta, luna di miele, Vincino, mi mancava la parola. Scusa, ho iniziato leggendo la lettera straziante del marito della Raggi dopo 21 anni lasciato, e tu mi parli di luna di miele, nozze, e allora ma sei un provocatore. Luna di miele della città con la Raggi, tutto il mondo parlerà bene di lei, lei dirà due stronzate buone all'inizio, no, ma guarda, questo combinato al crollo del governo dall'altro lato, perché che avverrà poi quando? L'Appendino invece aspetta un attimo, ma dimmi quando avverrà a questo punto il crollo del governo, perché... Quando è a luglio, quella data, il 25 luglio, qual è la data quella di luglio? No. Verrà chiamato da Mattarella e lo faranno uscire da un'altra parte in autoambulanza. No, era un centinaio d'anni fa, lascia perdere, dai, il traffico, poi parliamo un po' di Milano, di Napoli, Gigino De Magistris, insomma, delle altre comuni, siamo sempre qua. Milan, a me non interessa il traffico, mica il tuo palo. La gioia, e c'è ovviamente ancor più senso di responsabilità. Per come sono fatto, sto già ripensando a tutte le cose che abbiamo detto in campagna elettorale e quindi a tutto lo sforzo che dovremmo fare per far sì che ogni singola promessa che abbiamo fatto in campagna elettorale. È stato un lungo cammino, questo è iniziato 5 anni fa, quando oltre 20.000 torinesi, lo ricordo bene, ci hanno dato la possibilità di entrare per la prima volta nella Sala Rossa per iniziare a mettere i semi di ciò che sarebbe. Abbiamo vinto con lo schieramento contro del Presidente del Consiglio e del Governo in piena campagna elettorale, abbiamo vinto contro il Movimento a 5 Stelle, abbiamo vinto contro Gianni Lettieri che ci ha lavorato 5 anni, Forza Italia, Berlusconi, contro la gran parte del mondo dell'informazione che si è schierata contro il sindaco di Napoli in questa... Insomma, De Magistris ha vinto contro tutti, erano Sala, sindaco a Milano, Appendino a Torino e De Magistris. Oh, Gigino De Magistris, Chiara Geloni, ma non è la vera... Cioè, il vero successo, cioè uno che non ha un partito, che non ha... Di chi è De Magistris? Di chi è? È un grande successo. Lui sì che può dire io, no? Cioè lui può dire, ragazzi, il re di Napoli, sì, De Magistris. In una città dove evidentemente contano delle dinamiche un po' fuori da quelle dei partiti, ecco. Pur essendo una città così grande dove il voto d'opinione insomma dovrebbe contare, però a Napoli i grillini praticamente adesso, lui per carità ha vinto contro un avversario anche grillino, ma non è che siano mai entrati seriamente in partita, no? E, insomma, i grillini non avevano un candidato forte e il PD, vabbè, lasciamo perdere. Il PD, vabbè, ma tu cosa non chiedi? Era andato, cioè... al ballottaggio neanche l'altra volta, ma fammi capire a proposito del PD, dovrebbe Renzi lasciare la segreteria del partito? Non lo so, se vuole fare il segretario lo faccia. E se vuol fare il premier lo faccia. Se vuol fare il premier forse dovrebbe riflettere su alcuni provvedimenti del governo, su un modo di governare che forse non è tanto piaciuto. Non è che gli italiani stiano giudicando molto bene. Io penso che Renzi abbia costruito una situazione nella quale il PD non parla più a un pezzo del suo elettorato. Ecco, punto. Come segretario e come premier. Vabbè, Vincino dice che è un disastro, tanto crollerà a luglio. Ma io questo PD non lo so, lo sa Vincino che notoriamente... Beh, notoriamente si sa, ha visto la cavalcata e adesso vede... Come la definiremo, Vincino, quando crollerà? Dopo la cavalcata... La disarcionata, cosa? Sì, insomma, proprio il disastro. Guarda, di mattina a quest'ora mi mancano le parole come prima. No, diciamo, di qualcosa. Quando crolla tutto, in contemporanea, no, non, ma è. Là, lui si è circondato di deficienti, poi diciamo anche, no? di gente che ripeteva tutti la stessa cosa. Fa degli editoriali così, la prende alla larga Vincino quando deve dire delle cose. Vabbè, ma in tutto questo non abbiamo parlato di una persona. Caro Renzi, caro Vincino e cara Gironi, Silvio Berlusconi, che dal letto dell'ospedale San Raffaele... Aveva detto votate Parigi. Aveva detto votate Parigi, vabbè, questo mi sembra abbastanza normale, insomma. No, ma Parigi è stato bravo, dai. È arrivato, ha perso 51,7% fino a un mese fa, due mesi fa, la gente di Milano non sapeva manco quasi chi fosse Parigi come candidato sindaco, dico, non come imprenditore. No, Silvio Berlusconi, che succederà? Renzi, dai, voglio sapere qualcosa su Silvio Berlusconi. Ma perché... io direi che è un capitolo chiuso. Noi vogliamo riaprire questo capitolo. No, la destra ormai è distrutta tra Berlusconi, che non c'è più, che comunque aveva un suo ascendente sull'elettorato, quell'altro che continua a strillazzare contro, mette al muro gli immigrati, insomma, chiudere qua, chiudere là, effettivamente non è presentabile. E quindi si tratta, come dicono alcuni, di fare un nuovo centro moderato per accogliere queste posizioni che però ormai sono confluite nella politica e antipolitica, cioè ormai sono andate tutte sui 5 Stelle. Ma siamo sicuri? Cioè, che siamo sicuri che Salvini stia andando così bene? Nuovi capoluoghi di regione, nuovi capoluoghi... i provini, dai, non è che esistono, non, poverini. Esistono, no, certo che esistono, però dovranno fare adesso, oggi il Messaggero dice che Berlusconi è pronto al passo di lato, cioè voglio dire... sta là, è appena uscito dalla cosa d'urgenza, là, appunto, non è che, appunto. Dalla terapia... Intensiva. Io la prendo come suggeritrice alle 7 del mattino, sì, ufficiale, sì, ti assumo, sì, guarda, sì, che bello. È bellissimo. Dai Vincino, di una mezza frase che poi la conclude la Geloni. Di qualcosa, forza, dici un'ultima cosa, di una frase su Salvini, Vincino, pronta, chiara? Quello l'abbiamo già detto, quello su Salvini, quello non è... Vabbè, di una frase. Io ho una cosa presentabile. Su Codaco. Allora, se Chiara uno pronta, si vede arrivare, uno del PD, si vede arrivare negli ultimi due mesi, un giorno sì, un giorno no, una lettera di Equitalia o per una multa o per un IRPEF in ritardo, ma certamente non è ben disposto per il governo, perché come dire, per la cosa, no? Se uno del PD, un elettore. Uno del PD, un elettore. E lo odia, come dire, no, non è che va no, tutto, come dire, è un disastro tra banche, Equitalia, questo e quell'altro, poi... Assolutamente, mentre loro cambiano, eccolo là. mi deve dire mentre facciamo risentire la profezia di Fassino, la profezia ma di... porta sfighe, no, ma come tu Chiara Geloni la conoscevi la profezia ma di sì, Fassino la sì, sì, dai, sì, mitica la Fassino all'Appendino, che era consigliere comunale, poi Chiara Geloni mi devi dire in chiusura chi ha vinto e chi ha perso, proprio due nomi, chi ha vinto e chi ha perso. Fassino, senti. Io mi auguro che un giorno lei si segga su questa sedia e vediamo se poi sarà capace di fare tutto quello che oggi ha auspicato di poter fare. Eccola. E comunque lo decideranno gli elettori. Lo decideranno gli elettori. Forza, adesso Chiara, eccoci qua. Chi ha vinto queste elezioni? Sono elezioni locali, no? Gotor. No, Gotor. È Gotor. Sicuramente arrabbiato quanto me. È evidente chi le ha perse, no? Beh, abbiamo dillo tu, io non posso. Le ha perse Matteo Renzi. Questo è poco, ma sicuro. Quello intelligente per Vincino. Quello. Non adesso io non. No, l'ha detto Vincino. Fassate, non entro nel merito. Vabbè. E chi ha vinto? Non è che non sia intelligente, è che ha sbagliato completamente strategia, casomai. E chi ha vinto? Hanno vinto un po' di sindaci, certamente nel mondo oggi si parla di Virginia Raggi, questo è sicuro. Certo, sì. Sui giornali del mondo si parla di lei. Ma caro Vincino, l'hai vista in chiusura la foto di Beppe Grillo dalla finestra? No, ancora no, non ho ancora acceso il computer, cosa vuoi? Voi ma no, ma è di ieri, prima, è di ieri che esultava dalla finestra, pare che abbia detto alla festa della Raggi... Ma Grillo ha stravinto, sai cosa ha detto alla festa della Raggi? Li abbiamo puniti, ora comandiamo noi. Tempi duri, Vincino, per la satira. No, assolutamente, no, stupendi. Tocca fare subito un giornale di satira romano finanziato dal Coracon. Straordinario, potrebbe essere. Intanto vi saluto, ci sentiamo tra poco dopo la rassegna, dopo il GR per la rassegna stampa. Tra poco. E sinceramente immaginare la capitale di Roma gestita da uno che sta a Milano e gestisce il blog, non so come diavolo si chiama, è una cosa che mi fa venire un po' l'orticare. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio, marketing, informazioni commerciali e recupero crediti, assicom.com. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E allora, cari ascoltatori, sono qui, sono le 7:20 minuti, sono tornato anche per la rassegna stampa, ormai lo sapete. Siamo pronti a leggere i giornali che ovviamente sono tutti declinati sulle amministrative, il successo dei sindaci. Andiamo a vedere chi ha vinto e chi ha perso, anche se in politica si sa, vincono sempre tutti. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a lunedì 20 giugno, i titoli, il Sole 24 Ore. Movimento 5 Stelle trionfa a Roma e Torino, Sala vince a Milano, mentre per il Corriere della Sera trionfo 5 Stelle Milano a Sala. Per Repubblica trionfo 5 Stelle a Roma e Torino, Milano a Sala, ma per il PD è crisi. Il Messaggero, Raggi sindaco, sorpresa a Torino. Anche per Libero, brillano 2 stelle di Grillo. Il Fatto Quotidiano, Movimento 5 Stelle, la coppia di donne sbanca, Renzi bastonato, il suo PD frena, anzi frana, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Il Giornale invece ha questo ciaone Renzi come titolo di prima pagina. Vede le stelle, questo è il titolo del Manifesto, c'è un Renzi che guarda gli occhi al cielo, ovviamente le stelle sono le 5 stelle del Movimento. Roma e Torino, capitali grilline, è il titolo del Giorno, mentre l'Unità titola Arrivederci Roma. Per la Stampa, Torino e Roma vince la protesta. Quindi la Stampa è l'unico giornale che mette, insomma, la protesta come vittoria legata alla vittoria dei sindaci di Roma. Anzi, 2 donne sindaco Roma e Torino, a Roma è la prima volta nella storia. E racconta il Sole 24 Ore con Mariolina Sesto a pagina 3 un po' un riassunto di quelli che sono stati ovviamente i successi soprattutto nelle 5 città più importanti in cui si votava, e cioè Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli. Roma e Torino ai 5 Stelle, il PD vince a Milano, i 5 Stelle fanno l'amplein affermandosi a Roma e a Torino, il PD conferma Milano e Bologna, a Napoli bis della sinistra con l'ex PM Luigi De Magistris. Questa è la fotografia dei risultati delle 5 principali città al voto. A Roma non c'è partita. La Raggi, sapete, chiude con un vantaggio di 30 punti percentuali su Giachetti. Chiara Appendino invece supera il candidato PD e sindaco uscente Piero Fassino col 54,6%. Sala a Milano si impone col 51,7%. Vince nettamente De Magistris. E vince a Bologna col 54,6 Virginio Merola, che si conferma Partito Democratico. E poi anche gli altri risultati messi a pagina 3 del Sole 24 Ore: a Novara vince il centrodestra, a Varese sorpresa perde la Lega e vince il centrosinistra con Davide Galimberti, e dunque la Lega si ritrova in Lombardia a non governare nessun capoluogo. A Pordenone vince il centrodestra, così come a Trieste, così come a Grosseto, a Isernia, a Benevento col ritorno di Clemente Mastella, sindaco. Mentre il centrosinistra vince a Ravenna, vince anche a Caserta il centrosinistra. Vabbè, insomma, poi tutte le città le potete scoprire città per città. Allora, intanto i commenti, in genere si dice dopo le elezioni vincono tutti, così non è. Repubblica, pagina 2, partendo da Roma, racconta la festa del Movimento 5 Stelle, il trionfo. Trionfo è la parola più utilizzata per il Movimento 5 Stelle. Festa pentastellata in piazza e ora Grillo dice cambia tutto. In questo articolo di Alessandra Longo, che segue la festa al Parco Schuster del Movimento 5 Stelle, Grillo si aggira dietro le quinte incontenibile, dice comandiamo noi, li abbiamo puniti, stappano le bottiglie all'Hotel Forum dove è rintanato per ore. Passata la mezzanotte, Virginia Raggi esce dalla sua tana con 200 giornalisti ad aspettarla, anche i giornalisti giapponesi. Effettivamente questa notizia ha fatto il giro del mondo. E invece le reazioni in casa PD, beh, bisogna affidarsi subito al classico retroscena di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. È l'umore in casa Matteo Renzi. Pagina 3 del Corriere della Sera, Renzi ammette la batosta. Ho rottamato troppo poco. Questi sono gli umori, ovviamente nel retroscena, quindi niente frasi ufficiali, ma qualcosa che trapela, di Matteo Renzi. Abbiamo perso, c'è poco da dire. Vi dirò di più. Quando ci battiamo con i grillini, prendiamo la batosta. E poi Renzi aggiunge, ho perso perché non ho fatto abbastanza Renzi. Ho rottamato troppo poco, devo mettere da parte la vecchia guardia. Dovunque ci siamo battuti con i 5 Stelle, questi ultimi hanno vinto. E quindi non siamo sconfitti perché abbiamo ancora spazi, ma siamo anche pronti a farci male come si è visto in alcune situazioni. Insomma, un Renzi che non nega le sconfitte, dice ora vedremo cosa sanno fare i grillini e abbiamo perso perché quelle periferie di Roma erano piene di immondizia e perché la capitale è stata governata male. Ho visto le immagini dei TG sul voto a Roma con cassonetti che straripavano di rifiuti davanti ai seggi. E poi ce l'ha con Torino. Appendino a Torino ha vinto. Si tratta di gente che si esprime contro quella che considera la vecchia politica, chi ha votato per l'Appendino. E poi un Renzi che rialza la testa pensando al referendum, aspetto tutti al varco e lì ci divertiremo, perché lì scenderò io in campo e sarà un partitone. E poi ancora mette le mani avanti, comunque io non mi dimetto da niente. Dimettermi non ci penso nemmeno, questo è un altro punto del retroscena di Maria Teresa Meli, che ritorna anche nel retroscena di Goffredo De Marchis su Repubblica. La difesa di Renzi, vincono i volti giovani, ma la sfida, la vera partita con la P maiuscola è il referendum, aveva detto come refrain da tempo. Se questo è solo un voto locale, la vera partita è il referendum. La sconfitta a Torino e Roma è senza attenuanti, dice anche nel retroscena di Repubblica Matteo Renzi. Comunque, mi chiederanno il congresso alla minoranza del PD, si accomodino, tanto ci vuole un po' di tempo e non si può fare prima del 2 ottobre. Perché 2 ottobre? Beh, questa data che viene pubblicata da Repubblica viene per Renzi ormai considerata la data già fissata del referendum costituzionale. Dunque, prendete nota, cari ascoltatori, è molto probabile, questo almeno dice Renzi, che il 2 ottobre sia la data per il referendum. E comunque anche per Repubblica Renzi dice non mi dimetto da nulla, anzi vuole accelerare sulla rottamazione. Le altre reazioni, beh, le vedremo tra poco dopo la pubblicità. Prima però, visto che è il momento questo in cui dico sempre l'articolo che mi ha fatto pensare la giornata, l'articolo da Mani sul Volante, non so se l'avete tenuto anche questa settimana che ero in ferie, se siete alla guida, Repubblica oggi vuole proprio farmi arrabbiare. Ah, sì. Dormire bene e di più. Ecco perché il sonno può cambiare la vita e portare al successo. Caro Peter Bescapè, quante ore hai dormito tu? Questa notte 4 ore. Quanti anni hai? 40, esatto, li hai compiuti settimana prossima. Bravo, hai risposto bene a entrambe le domande. A 40 anni dovresti dormire almeno 7 ore. Questo secondo la classifica di Arianna Huffington, la fondatrice del sito omonimo che svela i benefici del riposo. Io dovrei dormire a 45 anni almeno 7 ore a notte, capito? Svelano i benefici del riposo. Bisogna dormire abbastanza per essere riposati e avere successo, capito? Che falliti che siamo, caro Pietro. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. Alessandro Milan, il sindaco di Roma dell'informazione. Milan, non era un complimento, eh? Ah, ecco. No, anche perché poi il sindaco è donna, primo sindaco donna, Virginia Raggi. E dunque, continuiamo, cari ascoltatori, mentre voi continuate a mandare le vostre sigle, riprendiamo al 349-238-6666, numero anche WhatsApp per le vostre sigle in audio, perfetto, in audio. Bello, preciso, puntuale. Allora, continuiamo la lettura dei giornali, ovviamente dedicati in gran parte, 25-26 pagine per giornale alle amministrative. Le reazioni, dicevamo, dopo quella di Renzi che ammette la sconfitta, c'è un Bobo Giachetti, Roberto Giachetti, sconfitto a Roma, che è letteralmente affranto, almeno si evince così dall'articolo di Fabrizio Roncone a pagina 13 del Corriere della Sera. Avevo davanti una montagna, il PD si è rivelato una zavorra, e questa è la frase più dura nei confronti del partito. Mafia capitale l'ho incontrata ovunque sono andato, ho capito subito che c'era una montagna da scalare, dovevo riuscirci da solo. Il partito purtroppo più che una risorsa si è rivelato una tragica zavorra. Così parla Giachetti Dopo i 5 tremendi anni di Alemanno, quando hanno dato fiducia a noi, li abbiamo ripagati con Marino. I romani erano e sono furibondi. La rage ha rappresentato la vendetta perfetta. E dirgli che sono romano e amo Roma, dirgli che come loro avrei voluto far rinascere questa città, non è bastato. E ancora, quello che Giachetti non può dire è il resto. Vada su YouTube, senta cosa hanno urlato a Matteo Orfini l'altro giorno nel mercato di Giardinetti. Uno ha detto che se avesse incontrato Renzi lo avrebbe preso a pizza in faccia. Ha detto proprio così. Un problema enorme. Dicono i collaboratori, Bobo, poveraccio, l'ha detto e ridetto, Renzi non c'entra niente, dovete votare me, non lui, lasciate stare Renzi, ma non è servito. E il collaboratore numero uno della sua campagna elettorale, Luciano Nobili, dice... Appena vedi i risultati, è uno tsunami. Occorre avere il coraggio di usare le parole giuste in politica. Effettivamente il Messaggero, a pagina 5, fa notare che è il risultato più basso del PD. Risultato al primo turno 17,2% dei consensi, ben lontano dal 43% ottenuto 2 anni fa alle europee, il famoso 43%, il PD... Ovviamente sono elezioni diverse, allora erano le europee, adesso sono le amministrative. Il PD al primo turno ha ottenuto il 17,2%, era il 43% alle europee, questo a Roma. E rispetto alle ultime comunali, quelle del 2013, i Dem perdono 9 punti percentuali. Ma allora a fianco del PD si registrò l'ottimo risultato della lista civica di Ignazio Marino, non replicato quest'anno dalle liste presentate a sostegno di Giachetti. Insomma, un Giachetti che dice impossibile fare di più, ma è il risultato più basso per il PD. E invece i trionfatori sono sicuramente quelli del Movimento 5 Stelle che gongolano e puntano adesso non solo alle città, ma guardano più in là, addirittura al paese, al governo. Eccolo qui dunque il summit con Casaleggio Junior del Movimento 5 Stelle, ora tocca a Palazzo Chigi, pagina 11 del Messaggero. E anche La Stampa ha questo tipo di analisi, il Movimento 5 Stelle si prende 19 città su 20 e Grillo avvisa è solo l'inizio. Questo è il dato che Ilario Lombardo sulla Stampa mette in risalto a pagina 4. 19 città su 20 in cui il Movimento 5 Stelle è andato al ballottaggio sono state ora vinte e hanno un sindaco appunto pentastellato. E è un successo sicuramente non indifferente. Nulla avviene a caso, scrive La Stampa, nel Movimento 5 Stelle. Se il sito di Beppe Grillo apre con un sobrio post in cui si gioisce per la vittoria di Torino e Roma, firmato Movimento 5 Stelle, qualcosa vuol dire. Se fuori dal quartier generale di Roma il boato della folla invoca il presidente Luigi Di Maio, significa che non era solo un voto amministrativo. I 5 Stelle hanno vinto 19 ballottaggi su 20, lo hanno fatto con il lutto al braccio per Casaleggio, e Beppe Grillo, tornato su un palco a far ridere senza chiedere in campo voti. E infatti Grillo rimane di lato, dice in viva voce al cellulare ai vincitori: a Raggi Appendino è vostra, questa vittoria è vostra, tocca a voi. Ma oggi rientrerà in scena alla grande nella festa organizzata per celebrare quella che è definita la prima tappa per la presa della Bastiglia. Di Maio, che è il più ricercato delle telecamere, parla già come leader in pectore, dicendo: i cittadini ci hanno riconosciuto la capacità di governare, ora siamo pronti per l'Italia. Insomma, un Movimento 5 Stelle che... vede questa vittoria molto galvanizzante anche per il domani. E invece nel PD ovviamente ci si interroga. Eccola qui la minoranza del PD pronta alla sfida. Renzi dice: non mi dimetto da nulla, il referendum è la prossima sfida. Ma la minoranza pronta già alla sfida su cosa? Il doppio incarico, cioè Renzi premier e Renzi segretario del Partito Democratico. E anche sull'Italicum, cioè cambiare l'Italicum come merce di scambio per dire allora diciamo sì al referendum. Beh, per il momento parlano in pochi. Deborah Serracchiani, vice del PD, vice segretario del PD, dice una sconfitta netta contro le grilline, i cambi in segreteria non tengo alla poltrona, pagina 17 del Corriere della Sera. Anche lei parla di sconfitta, non possiamo negare che alcune sconfitte siano pesanti, non possiamo negare che pur essendo un voto locale contenga alcune indicazioni nazionali. E riguardo all'emergenza, dice al Nazareno, cioè la sede del PD emergenza, no, c'è un clima di necessità di fare il punto, questo sì. E il lanciafiamme evocato da Renzi per cambiare il PD, il problema è averlo cambiato troppo poco, risponde Serracchiani. Dobbiamo continuare il lavoro di cambiamento che abbiamo fatto a livello nazionale e non sempre siamo riusciti a tradurre a livello locale. Renzi ha detto che della segreteria si occuperà dopo il voto, io credo ci siano le condizioni per farlo bene, quanto a me ho sempre detto che non sono attaccata a nessuna poltrona, così Deborah Serracchiani. Parla anche Matteo Orfini, che del Partito Democratico è il presidente, e dice alla stampa: il vero partito della nazione lo hanno fatto i 5 Stelle, i loro voti sommati a quelli della destra. Sicuramente sconfitta per noi, aver perso Roma e Torino brucia ed è doloroso. Insomma, la vittoria a Milano di Sala è una vittoria che però appare in questo momento per il Partito Democratico come una consolazione non sufficiente, però certo Sala ce l'ha fatto, sarebbe stata una debacle perdere anche Milano. Ha vinto a Bologna, questo è vero, Virginio Mero, una storica roccaforte di sinistra, ma Sala ovviamente è felice per la vittoria, seppure risicata, insomma c'è stata una grande rimonta già dal primo turno di Stefano Parisi, che poi è stato battuto con 51,7% a Sala al ballottaggio e 48,3% a Parisi. Parisi che tra l'altro racconta il Corriere della Sera, dice: non mollo, c'è un progetto e si va avanti, cambieremo profondamente la politica in Italia. Questa è la prima reazione, ovviamente poi bisognerà vedere. Guardano tutti anche alla Lega. La Lega, beh, in retromarcia, come racconta il Corriere della Sera, pagina 21. La Lega in retromarcia, non è bastato essere anti-Renzi, questa è l'analisi di Marco Cremonesi a pagina 21 del Corriere della Sera. Per esempio la Lega perde Varese, storica roccaforte leghista, sconfitta a Bologna, o meglio non ce l'ha fatta, non era facile insomma vincere a Bologna, ma soprattutto ha perso a Varese, e a questo punto la Lega si ritrova con nessun capoluogo in Lombardia, con un sindaco. E infatti Salvini, racconta Repubblica con Matteo Pucciarelli, lancia l'alternativa: ormai è dimostrato, con i moderati perdiamo. La Milano di Matteo Salvini rimane a sinistra, la Varese di Maroni e Bossi volta le spalle alla Lega e va al PD. E poi i leghisti al ballottaggio votano i grillini, ma i grillini al ballottaggio non votano i leghisti. Asse sì, ma insomma a senso unico. A voler essere generosi per il Carroccia, conti fatti, la tornata delle amministrative vale una risicatissima sufficienza. E dice Salvini: chi ha sbagliato pagherà, dobbiamo fare le nostre valutazioni, di sicuro. Scrive Repubblica: il suo iperattivismo mediatico e non solo paga a metà, perché la Lega cresce ma non abbastanza, non quanto le ambizioni del segretario federale e quanto lui richiedeva. Le riflessioni che si fanno tra i Lombard sono due: il renzismo sembra tramontato e poi che adesso vince la sfida di ottobre per il referendum sembra davvero possibile. Però messe da parte le due cose, l'opa della Lega sul centrodestra non c'è stata. Ecco, a proposito di centrodestra, invece il centrodestra che non vince a Milano ma va a un soffio dalla vittoria, vince in altri comuni importanti, sicuramente il capoluogo, si deve misurare con quella che sono le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Berlusconi prepara il passo di lato, questo racconta il Messaggero con Emilio Pucci. L'accordo sull'Altolà a Parisi, niente tecnici per il dopo Cavaliere, perché si pensava già che Stefano Parisi, dopo questa brillante comunque affermazione a Milano, potesse essere il nuovo Berlusconi, ma secondo il Messaggero non si punta a tecnici ma a politici. L'idea è fare un gruppo unico. Il pressing, racconta anche il Messaggero, di Confalonieri, amico storico su Silvio Berlusconi, è il partito diventi una sorta di monarchia costituzionale. Ora si deve capire chi sarà chi sarà insomma il successore di Berlusconi, o se Berlusconi vorrà comunque guardare a un centrodestra allargato. Allora, sono le 7:43 minuti, c'è un annuncio da fare importante questa settimana. Mauro Meazza non sarà con noi per tutta la settimana, ma ovviamente lo recupereremo settimana prossima, ma credo che il nostro Mauro ci abbia lasciato una piccola eredità, o no? No, Mauro, no? Meazza non poteva essere presente in questa settimana dopo il voto. Lasciò per il tuo pubblico esigente li versi suoi a un dicitore noto. E certo la mia voce è manifesta, perché in codesta radio tengo segno, va in onda il pomeriggio al dì di festa, domenica vuol dire, son pieno in segno. Ma in questa mane son l'ambasciatore dei detti dell'alfiere nerazzurro, colui che annuncia il sol 24 ore, in modi che il cuor si fan di burro. E allora ti rammento invece sua di legger sempre religiosamente norme e tributi alla salute tua. Bene farà e n'avrai giovamente. Debosciatello mio, la tua vacanza non ti distolga mai dal vero e il certo, le inchieste il lunedì con l'abbondanza e le risposte grate dell'esperto. Or vado, torno il giorno 26 su queste onde nel mio orario classico. Se avessi tempo ti interrogherei, ma per fortuna tua ci tocca il traffico. Alessandro Milan, il Gattopardo dell'informazione. Vabbè, ma insomma, Mauro Meazza così non vale. Chiede gli aiutini a casa, si fa appoggiare e si fa sponsorizzare dal grande Pinesegno, che ricordo ogni domenica è qui su Radio 24 alle 14:30 con Voice Anatomy. E va bene, allora attendiamo Mauro Meazza, il debosciatello è qui che attende, grazie anche a Pino ovviamente per questo cadeau a 24 mattino. Allora, vogliamo parlare delle altre notizie che ci sono sui giornali, ovviamente notizie che oggi sono un po' in piccoli ritagli di pagina, ma ci sono, importanti, gran parte dei giornali dedicati alle amministrative, ma c'è anche altro ovviamente. Vi voglio segnalare una guida importante sul Sole 24 Ore per capire tutto della Brexit, gli effetti del referendum che sicuramente cambierà l'Europa in un senso o nell'altro. Sapete che si va a votare in Gran Bretagna per decidere se uscire giovedì mattina dalle 7 alle 22 dall'Unione Europea, la Brexit, oppure la Remain, cioè l'uscita o il rimanere nell'Unione Europea. Ora c'è questa guida molto importante di 8 pagine sul Sole 24 Ore. Leonardo Maisano parte ovviamente da che cosa? La posizione di Cameron, del Premier, parola di David Cameron, una via senza ritorno, la Brexit, una via verso la recessione, dopo 3 giorni di silenzio ovviamente per l'uccisione della deputata laburista Jo Cox, assassinata da uno squilibrato con passioni neonaziste, è ripartita la campagna referendaria sull'adesione della Gran Bretagna all'Unione. E l'alto là Brexit, espresso dal Premier in un articolo sul Sunday Telegraph e ribadito alla BBC, si è scontrato con la battuta invece di Michael Gove, che nel governo britannico è ministro della giustizia e di Cameron era grande amico fino allo strappo ideologico sul destino europeo di Londra, che ha detto, Gove ha detto, la Gran Bretagna può fare i conti con qualsiasi cosa il mondo le riservi. Insomma, il guardasigilli, il leader dei Brexiters, insieme all'ex sindaco di Londra Boris Johnson, dice invece si può fare la Brexit. Insomma, cosa cambia? Gli scenari Brexit o Remain? Ecco cosa succederà in termini di trattati, in termini di accordi tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna se la Gran Bretagna dovesse uscire, in termini anche dei cittadini dal punto di vista del lavoro, dello studio, del turismo. Che cosa cambia? Insomma, una analisi molto interessante. Ovviamente noi non votiamo, votano in Gran Bretagna, ma è bene attrezzarci a capire che cosa può succedere. Anche il Corriere della Sera, così come tutti i giornali, dedica 2 pagine al tema della Brexit. È la settimana in cui si vota questo referendum e il Corriere della Sera fa un interessante punto di vista da Washington, l'analisi di Jan Bremmer, da Parigi l'analisi di Bernard-Henri Lévy, filosofo, saggista, giornalista, che dice: un'uscita non sarebbe fatale né pregiudizievole. La questione più seria, dice Henri Lévy, è l'arroventarsi del dibattito attorno all'uscita o meno della Gran Bretagna dall'Unione Europea. E contrariamente a quanto pensano in molti, io non sono del tutto sicuro che tale uscita le potrebbe essere fatale, né tantomeno realmente pregiudizievole. Già si delinea chiaramente uno scenario in cui la City londinese potrebbe addirittura approfittare della nuova situazione per affrancarsi dai vincoli comunitari, riprendere in mano le briglie della sua finanza, avvantaggiarsi, perché no, dell'effetto bonanza venutosi a creare dall'allineamento dei suoi partner storici con l'ideale della trasparenza generalizzata e dalla caccia ai fondi nascosti per trasformarsi in una gigantesca idrovora aspirante. Quella voluta d'oro che tutto avvolge, di cui parlava Balzac. Così inizia la sua analisi anche un po' complicata il filosofo Bernard-Henri Lévy, per dire che non sarebbe comunque fatale una Brexit, e quindi così la pensa lui. Ho altri temi che sono sui giornali, sono sempre la questione migranti. Tra l'altro le ONG denunciano che al confine turco l'esercito avrebbe sparato su un gruppo di siriani che voleva entrare in Turchia. Si parla di 11 morti, tra questi anche 4 minorenni. E questa è la cronaca terribile. Ho trovato un numero che mi ha molto colpito, è un rapporto dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU su Repubblica, Rosalba Castelletti ne parla. Ogni minuto che passa, pensate, ogni minuto anche di questa giornata, di questa vostra giornata scandita, le solite cose da fare, ci sono nel mondo 24 sfollati, cioè 24 persone che fuggono dall'inferno di guerre, persecuzioni, torture, pulizie etniche, stupri di massa, consegnando così al 2015 il record più triste in questo ambito come persone che fuggono dai loro paesi. Sono 6 milioni in più rispetto al 2014, è il più alto numero dall'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconta il Global Trends 2015, rapporto che verrà diffuso oggi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nella giornata mondiale del rifugiato, cioè oggi. Appunto, questi sono i numeri. Ogni minuto 24 sfollati. E ripeto, questo è successo in Turchia, poi l'effetto... anche di cronaca, di spari sui siriani. Vi segnalo un'intervista di Luca Telese sul Libero, un'intera pagina a Michele Anzaldi, palermitano del PD, colui che fa sempre le pulce a quello che succede in Rai. Una pagina di intervista. Dice Michele Anzaldi, la Rai è graniticamente antirenziana. Antirenziana, io ho dovuto rileggerlo. Antirenziana, c'è scritto anti, fai vedere Lorenzo Nespoli, siamo in diretta anche sul mio canale pubblico di Facebook, c'è scritto antirenziana, giusto? Leggi anche tu, antirenziana. Ebbene sì, così dice l'onorevole Anzaldi del PD, vorrei una Rai più equilibrata, oggi è graniticamente antirenziana, non solo antirenziana, graniticamente antirenziana, il TG1 è passabile, il TG2 è così così, il TG3 scandaloso. Questa è l'analisi di Michele Anzaldi. Cos'è un complotto? Ma tu scherzi, ma il PD è quintultimo nelle presenze di questa settimana. Ma c'è la par condicio, dai, avete già parlato. No, caro, lavorano male, sono peracottari. Non può esaurire il nostro tempo per imbavagliarci a 2 giorni dal voto. Al TG3 invece sono bravi e appassionati e si sono appassionati a criticare Renzi. Così Michele Anzaldi, vabbè, per chi segue queste cose di televisione ci saranno le polemiche. Invece le polemiche sono di alcuni sindaci, questo è importante, a pagina 33 del Corriere della Sera, alcuni sindaci e presidenti di provincia, sì, è vero, si è aperta la 164esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, dimenticavo, chiusa parentesi, hanno scritto al governo preoccupati per la legge sull'omicidio stradale. Come racconta Lorenzo Salvi a pagina 33 del Corriere della Sera, la lettera è partita pochi giorni fa. Sindaci e presidenti di provincia hanno scritto al ministro dell'Interno Alfano. Temono che il reato di omicidio stradale non colpisca solo i pirati che provocano incidenti e poi non si fermano. temono che colpisca anche gli amministratori locali, perché la legge prevede fino a 12 anni di carcere, con una circolare applicativa del ministero, per chiunque provoca un incidente. Se a provocare un incidente è una buca, di chi è la responsabilità? I sindaci e i presidenti di provincia temono che da qui si possa arrivare ad accusare gli amministratori che dovrebbero gestire, per esempio, il manto stradale. E allora ecco i dubbi e la lettera di chiarimenti. Vabbè, dai, siamo alla carta costa. La nostra amica selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano pubblica una lettera nella quale un lettore, anzi una lettrice, Silvia, chiede così: ho conosciuto un uomo che invece di fare l'amore cerca delle strappone su Tinder. Ma chi se ne frega!